piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Una clamorosa mini riforma del codice della strada, introdotta silenziosamente nel DL Semplificazione appena approvato al Senato in attesa di passare alla Camera. Così definisce le importanti novità sulla circolazione l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Ma quali sono le novità? Si parte dalla svolta sugli autovelox affissi, che potranno essere posizionati in città anche sulle strade urbane di quartieri e locali, oggi vietato. Toccherà al prefetto autorizzare le nuove postazioni. Il corposo pacchetto a tutela dei ciclisti prevede l'introduzione della strada urbana ciclabile ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km orari e priorità per le biciclette. Ma c'è anche la rivoluzione del contromano, via libera alle bici in ambo i sensi su strade urbane con limite dei 30 km orari o nelle ZTL. Gli scooter a tre ruote potranno tornare a circolare in autostrada e sono previste nuove competenze per accertatori e ausiliari della sosta, che avranno maggiori poteri riguardo le sanzioni nei divieti di sosta. Siamo tutti impegnati in pensieri che in questo momento proprio non hanno nulla a che fare con il codice della strada, però siccome tutti cominceremo comunque a circolare tranquillamente nelle nostre città, è ora che ci facciamo un po' un'idea di quello che potrebbe accadere. Avete sentito nel servizio di introduzione preso dal canale YouTube Publisole, nel decreto semplificazione, che sta per diventare legge, praticamente è solo una formalità, deve passare al Senato, ma c'è stata messa la fiducia sopra, quindi deve passare alla Camera e quindi passerà sicuramente. C'è proprio una vera e propria piccola riforma del codice della strada, che riguarda alcuni elementi che in qualche maniera incidono fortemente anche sulla nostra serenità e tranquillità. Autovelox in città, facciamo un esempio. Gli autovelox potranno essere messi in città e nelle città ci sono dei limiti di velocità di cui spesso non ci accorgiamo. Andare a 30 all'ora in una strada libera è abbastanza difficile, bisogna fare attenzione, bisogna occuparsi non superare quel limite di velocità. Non ci abbiamo mai fatto molto caso, magari sbagliando, però d'ora in poi dovremmo starci attenti. Poi vi dico un altro elemento che secondo me merita riflessione: è stato molto incrementato l'uso delle biciclette, dei mezzi alternativi in epoca Covid e post-Covid. Le nostre città ormai hanno questa novità del monopattino, che qualcuno può piacere, qualcuno può non piacere, crea già qualche problema di circolazione, soprattutto quando te li vedi spuntare di notte in fila indiana con due persone per monopattino. Ma nelle novità di questa piccola riforma del codice della strada c'è che le biciclette potranno circolare anche contromano e in alcune strade, diciamo, particolarmente adeguate nelle città. Beh, il monopattino è come fosse una bicicletta, questo almeno abbiamo capito in trasmissione a lui dedicato, quindi potremmo vederci dei monopattini andare contromano. Beh, di tutto questo oggi vogliamo parlare. Molti di voi già stanno nei social a protestare perché la semplificazione di alcuni di questi cambiamenti, di queste novità, anche nei turbini potranno fare le multe. Già tutti hanno questa sorta di luogo comune dello spazzino con la scopa ancora iconograficamente rappresentato come nel film di Mary Poppins della Disney degli anni 60, lì pronto a farci le multe. Non è esattamente così, ma anche qualcosa cambia in quel fronte. Quindi 800 24 00 24, pronti ad ascoltare quello che cambierà nel codice della strada sicuramente, e pronti anche a fare le vostre eccezioni. Ingegnere Enrico Pagliari, buongiorno. Buongiorno. Allora, ingegner Pagliari è il coordinatore dell'area tecnica dell'ACI, quindi immagino che abbia strumenti molto più raffinati delle mie rozze semplificazioni per raccontarci, farci capire bene cosa cambia. Questa era una riforma importante innanzitutto, ingegnere? Cioè, si aspettava da tempo, è vero? Era qualcosa che doveva accadere? diciamo, guardi, di positivo c'è che ci andiamo a occupare sostanzialmente dell'ambito urbano, dove ancora c'è molta criticità, soprattutto in termini di sicurezza. Sappiamo bene i pedoni e i ciclisti che sono coinvolti in incidenti, e questa è veramente una criticità. Poi sulle soluzioni precise che sono state prese siamo un po' preoccupati, soprattutto su alcune. Lei citava prima il discorso delle biciclette. Sì, in questo periodo la usiamo di più per tutta una serie di contingenze particolari, non ultima l'emergenza sanitaria che ci spinge ad usare un mezzo individuale, la bicicletta da questo punto di vista aiuta. Però, ma cosa dice la norma che è cambiata rispetto alle biciclette? E poi mi sembra proprio con lei ho fatto la trasmissione. C'è un pacchetto di misure che riguarda proprio le biciclette. Io se la leggo così parlerei un po' di deregulation della bicicletta, che va incontro, io ci vedo due forti criticità alle misure che vengono prese. Una dal punto di vista della sicurezza, soprattutto quando si parla di andare contromano o andare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ancorché lasciando l'onere. Cioè, mi scusi un attimo, ingegnere, io che prendo spesso taxi sento lamentarsi i tassisti che nelle corsie preferenziali, soprattutto in una città come Roma, dove sono infinitale le persone autorizzate, circoleranno anche le biciclette, cioè in una corsia taxi o autobus, sì, circoleranno le biciclette. Sì, ma comprese quelle con i binari dei tram, che diciamo che è la ghigliottina di ogni ciclista. No, lì dice la norma, è accorta, dice a meno che non ci siano particolari situazioni, tipo proprio vengono citate i binari dei tram, che ovviamente sono... Allora i ciclisti infibia. Potranno usare le preferenziali, eccetto dove ci sono i binari dei tram. Molte volte è un po' difficile. Perché... Poi al solito la normativa italiana è tutta complicata e deroga al sindaco l'ultima autorizzazione. Cioè dice, a fine deve dire il sindaco, quindi figuriamoci. Senta una cosa, ma proprio con lei mi sembra che ho fatto la trasmissione. Se il monopattino è equiparato a una bicicletta, anche i monopattini possono fare esattamente le stesse cose, andare contromano, andare nelle preferenziali. Esatto. Ecco, questo... Cioè, a parte problemi proprio di insicurezza, cioè un bus che cammina su una stessa corsia con una bicicletta, spesso la bicicletta non è vista, soprattutto in manovra, in curva, gli incidenti proprio più numerosi che avvengono con le biciclette sono proprio quando vengono buttati giù da un mezzo un po' più grosso. Ma a parte proprio l'insicurezza, oppure il contromano all'improvviso, tu non te l'aspetti, ti vedi sbucare una bicicletta, stai guidando normalmente. No, mi scusi, Genere, che voglio capire bene, possono andare contromano anche nelle preferenziali? No, in alcune strade a senso unico loro possono comunque avere il doppio senso di marcia, ancorché il flusso veicolare abbia un senso unico di marcia, loro possono procedere nei due sensi. Capisce bene che è pericoloso soprattutto alle intersezioni, no? Dove tu sai che vai a senso unico, controlli certe direzioni, improvvisamente ti arrivano le biciclette mezzo contromano. Ma non è tanto le biciclette, ingegnere, sono i monopattini che vanno alla velocità di un'automobile più o meno in città. Sì. Non vengono citati i monopattini, vengono citati i velocipedi, però sappiamo ormai sono equiparati, quindi di conseguenza ci troveremo anche queste situazioni. Però ecco, intanto chiedo al pubblico, scusi un attimo ingegnere, devo chiedere al nostro pubblico se ci dà supporto. Ecco, vi ha spiegato l'ingegner Pagliari dell'ACI quali sono, diciamo, un inizio di questa mini riforma. Ciclisti che ci ha ascoltato, automobilisti urbani che ci ha ascoltato, ecco, su questo tipo di norma avreste suggerimenti, integrazioni? Tanto passa, quindi dovremmo discuterne a posteriori. Come la pensate? Andiamo avanti con l'ingegner Pagliari. La voce degli autovelox in città è quella che più preoccupa. È quella che più preoccupa, perché le faccio un esempio. Sì. La strada che va allo stadio olimpico dove gioca la Roma, la Lazio, va dicendo, che è vicino a casa mia, è una larga strada in mezzo a una pineta, praticamente spesso pochissimo frequentata. Mi sono accorto c'è un limite di 30 all'ora. Ho provato ad andare a 30 all'ora. Devo andare in prima, rischiando di spegnere il motore con la gente che mi suona dietro, perché è una strada larga, libera, tutti mi dicono: ma che sei, mi prendo un Bruno Marelli col cappello? Ecco, in questo caso, se ci mettono autovelox saranno pifferi per quelli che mi suonano dietro, che solo a 30 all'ora si potrà andare. Ecco, questo è un discorso, diciamo, già affrontato, ma lo ripetiamo. L'autovelox è utile dove bisogna abbassare la velocità, sempre per motivi di sicurezza. C'è un punto critico, un punto pericoloso, è opportuno rallentare. Ma mettere soltanto un cartello 30 all'ora e poi non organizzare la sezione stradale in modo congruente a quella velocità, cioè che ti fa capire che lì devi andare a 30, se mi lasci una corsia dritta, un rettilineo, magari con una corsia larga anche due per senso di marcia, non ho la sensazione di dover andare a 30 all'ora. Quindi non basta il cartello 30 all'ora per imporre quel limite di velocità, va organizzata la sezione stradale in modo congruente. Mettere l'autovelox in queste situazioni fa pensare che si vuole far cassa, perché quello che descriveva lei è inevitabile, cioè se c'è un rettilineo, una strada larga, anche libera, non ci si riesce ad andare a 30 all'ora in città. No, ti suonano dietro subito, uno può fare anche il ligio, diciamo io voglio stare attento e andare a 30 all'ora, ma distruggono gli altri automobilisti che non hanno magari visto il cartello e non sanno che bisogna andare a 30 all'ora. Quello è grosso, da questo punto di vista bisognerebbe avere il coraggio di riorganizzare interamente la mobilità della città su due livelli, una strada, un livello di strade primarie, principali, dove hanno la precedenza i veicoli, e imporre dei limiti di velocità a 50-70 km anche per le strade di scorrimento, e un livello di strade locali, però organizzate come dicevo prima, cioè di dare la sensazione che stai andando su una strada locale, dove hanno precedenza pedoni al primo posto. Ecco, perché un'altra caratteristica, si parla poco dei pedoni in questa riforma, si parla molto dei ciclisti, poco dei pedoni, invece sappiamo bene che l'utenza più vulnerabile è il pedone, perché se una bicicletta investe un pedone si fa male il pedone. Oh, sentiamo un attimo qualche ascoltatore, ingegnere, un secondo solo. Domenico, sentiamo Domenico, buongiorno. Buongiorno, Angoletti. Sono un tassista di Roma, io non rimango senza parole a leggere. Una bella storia, una bella storia per voi tassisti romani, che vi troverete le biciclette contromano. Ah no, guardi, allora, le dico che le biciclette contromano ce le troviamo già adesso. Contromano mille monopattini, tanto che io dovrei mettere una telecamera per tutelarmi da questi signori, perché succedono delle cose inenarrabili. No, sa, mi sono permesso di ridere, perché sento sempre i suoi colleghi che me lo dicono quotidianamente questa cosa, lo so allora, benissimo. Com'è possibile autorizzare, cioè già lo fanno adesso, autorizzare le biciclette ad entrare sulle corsie preferenziali, quando la corsia preferenziale è l'unico mezzo che abbiamo noi del taxi o degli autobus per snellire la velocità commerciale del servizio pubblico? Già adesso nella corsia preferenziale entra chiunque, perché nessuno controlla. Allora io mi dico, non si può allora io le faccio un altro esempio di corsie ciclabili fatte a Roma. Sulla via Nomentana hanno fatto una corsia ciclabile bellissima, assolutamente assurda e pericolosissima, perché tra la corsia preferenziale e il senso di marcia c'è una fila di macchine parcheggiate. Io che vado sul senso di marcia, guardando a destra, essendo le macchine parcheggiate, non vedo chi c'è di là. Il ciclista sulla ciclabile non vede me. Quando arriva all'incrocio il ciclista, siccome sta sulla ciclabile, fa come un treno, indipendentemente se è un incrocio. Quando giriamo, spesse volte rischiamo l'incidente. Sulla Palmiro degli Atti hanno fatto adesso una bella preferenziale, una bella ciclabile. Beh, io mi trovo i ciclisti sulla mia preferenziale, gli ho detto a uno una volta, gli ho scusa, ma hanno fatto la ciclabile, perché cammini là? Io lì non ci posso, non ci voglio camminare, ma cammina sulla preferenziale. E adesso sarà anche autorizzato a camminarci, adesso non potrei dire più autorizzato, per cui non capisco, invece di controllare, questo, io capisco che il vigile non può controllare il monopattino contromano, la bici contromano, ma non si può autorizzare questi signori ad entrare sulle corsie preferenziali. È allucinante, e devono rispettare il codice della strada, non possono andare contromano. Quelli che portano il cibo a casa vanno tutti contromano senza fari. C'è da dire, mi stanno segnalando le persone, poi sentiamo un ascoltatore che parla da Rotterdam, che in quasi tutta Europa da tanti anni le biciclette possono andare contromano, facendo attenzione, non pare ci siano stati grossi problemi. Ci fermiamo un istante, fra un po' riprendiamolo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog. Come rispettano il codice della strada, va? Senza una luce, senza un pedale frangente, senza niente. Occupano tutta la sede stradale, io costretto a stare dietro a 35 all'ora perché non mi danno proprio la possibilità di sorpassare, va? Poi giustamente difendono la categoria dei ciclisti e massacrano quella dei camionisti. Tu considera che tutto il giorno noi siamo a combattere con questa specie qua. Ma io, con un bilico carico, come faccio a sorpassarti? Io sto facendo 30 all'ora perché questi hanno deciso di fare gli affari loro, guardate. Ecco, nove colli e puntuali i coglioni che arrivano. Guardali qui, sti rotti in c***o. Fatela, porco c***o! Porca c***a! Diciamo che c'è già un filino di tensione fra automobilisti e ciclisti, in questo caso era un camionista de Perugia che ce l'aveva con i ciclisti, poi l'altro è il ciclista che ce l'ha con gli automobilisti. Diciamo che le norme della mini riforma del codice della strada, che sono nel decreto semplificazione che sta per diventare legge, non aiuteranno certo a rasserenare il clima. Intanto ringrazio Pietro Lacorte che mi manda in onda da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che mi supportano da Roma, e sento qualche ascoltatore, poi ci risponde l'ingegner Enrico Pagliari che è il coordinatore dell'area tecnica dell'ACI, con il quale stiamo cercando di analizzare punto per punto quelle che sono le fasi critiche di questa mini riforma del codice della strada. Allora, Riccardo, buongiorno, l'avevo già annunciata prima. Riccardo. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì, certo. Buongiorno, io ho passato, non abito a Rotterdam, ma ci ho passato una settimana in auto recentissimamente, e lì ovviamente sono città che sono enormi, per cui hanno spazi, hanno tutte le piste ciclabili dedicate, eccetera. Sono anche una cultura della bicicletta che non abbiamo ancora noi, la bicicletta come mezzo urbano. Mi dicevano che lì negli anni 70 ci sono stati degli anni tremendi in cui c'è stata proprio una rivolta popolare delle madri che hanno bloccato le strade affinché il governo facesse le piste ciclabili, perché c'erano stati tantissimi incidenti con bambini che andavano a bici bianche, c'è tutto un movimento di pensiero che appunto favoriva questa cosa. Però adesso a Rotterdam funzionano le cose, questo è chiaro. A Rotterdam funziona, però molto lasciato anche al buon senso delle persone, tipo la bicicletta che viene nel centro, diciamo, dove ci sono le strade più strette. È chiaro che le biciclette vanno contromano e uno deve in qualche modo passare, ma addirittura ci sono delle stradine, che io abito a Firenze, che a Firenze sarebbero sicuramente a senso unico, lì sono a doppio senso, ci si alterna fraternamente anche con gli altri automobilisti, con i ciclisti e con tutti quelli che utilizzano le quindi strade. Lei praticamente, Giancarlo, dice che al di là delle norme sulle quali si può discutere, ancora noi ci manca una cultura di convivenza due ruote, quattro ruote nelle città. Sentiamo invece Giancarlo da Roma. Roma è una città particolarmente sensibile a questa riforma, immagino. Giancarlo. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Io la chiamo perché sono un imprenditore disperato. Ho un locale al centro di Roma che ho aperto con tanti sacrifici 25 anni fa. E dopo qualche anno hanno introdotto la ZTL. E va benissimo, va bene per limitare il traffico, però noi abbiamo cominciato a lavorare di meno. Fortunatamente poi sono arrivati i turisti al centro di Roma e siamo riusciti a sopravvivere 25 anni. Adesso che i turisti non ci sono più, io e tanti altri miei colleghi al centro di Roma siamo in situazione critica. Io ho mandato una lettera alla sindaca Raggi per chiedere di abolire la ZTL almeno fino a fine anno o fino a che si riprendono. Sì, adesso, io la capisco che è drammatico per lei, però spostiamo un po' il problema su un piano nazionale. Stiamo parlando di una riforma del codice che riguarda tutta Italia, poi il problema della ZTL di Roma, adesso che siamo poi in area di pre-campagna elettorale, figuriamoci, sarà molto più sensibile la sindaca ad ascoltarlo, però vorrei non uscire da questo seminato. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signore Coletti, mi senta? Sì. Pronto, salve, scusi. Niente, io volevo dare un attimo il mio punto di vista e volevo intanto dire che condivido tutti i punti che ha detto il signore prima relativamente al discorso su Rotterdam e il concetto che hanno loro delle biciclette in Olanda, perché anch'io, lavorando con gli olandesi, mi sono accorto di questa differenza culturale veramente importante. E a maggior ragione mi sembra assurdo che venga fatta una riforma sul codice della strada che vada a permettere alle bici, che già vengono comunque ignorate o comunque denigrate da quello che è il mondo automobilistico, già vedi il metro e mezzo di distanza che bisognerebbe lasciare in fase di sorpasso sulla bici, che è praticamente non rispettato da nessuno, ma appunto non capisco perché si dice facciamogli andare contromano, che a quel punto già la bici viene un po' ignorata quando rispetta il codice, diciamo, attuale della strada. Andandomela a far andare contromano, secondo me è un serio rischio, soprattutto per il ciclista, proprio perché non c'è quella cultura di rispetto, cioè la bici non viene vissuta come un mezzo della strada. Diciamo che non è un obbligo per il ciclista andare contromano, se lei continua a aver paura, giustamente può evitare di farlo, però è importante anche chiarire questo punto. Allora, ingegnere Enrico Pagliari dell'ACI, vedo che ci siamo un po' focalizzati su questa storia delle bici contromano. Innanzitutto chiariamo che non è in tutte le strade in assoluto, immagino, no? Urbane. Sì, no. Addirittura si parla di limite di strade dove vige il limite di velocità di 30 all'ora, quindi ovviamente in particolari condizioni. Anche se poi sappiamo che in Italia, l'Italia dei campanili, ogni comune interpreterà a modo suo, no? Qui siamo maestri. Guarda che è complicato, che strada magari c'è un limite di 30 all'ora, poi passa a 50. Cosa faccio? Spingo la bici a mano quando è 50 e poi rivedo a pedalare a 30. Cioè, mi sembra una cosa folle. Volevo sottolineare un punto che ha toccato l'ultimo ascoltatore, che è importantissimo. Cioè, anch'io ho la sensazione che questo pacchetto di misure invita a una sorta di deregulation e è diseducativo, cioè invece di infonderci quel rispetto delle regole a tutti gli utenti della strada, proprio quando siamo diversi, il pedone, il ciclista, l'automobilista, il camionista che prima sentivamo, dobbiamo darci delle regole e le dobbiamo rispettare. Ovviamente privilegiando gli utenti più vulnerabili, e ci mettiamo pure le biciclette agli utenti vulnerabili, però letto nel suo insieme può essere diseducativo, cioè tu gli dici puoi andare contromano, addirittura c'è un'altra regola che dice alle intersezioni hanno la precedenza, il problema che segnalava il tassista. Dice io arrivo all'intersezione e questi, ecco, da adesso avranno la precedenza, però se non li vedo ovviamente... Rotterdam, il paragone che viene fatto con le altre città va bene, però è quello che dicevo prima, cioè dobbiamo riorganizzare le nostre strade, soprattutto proprio riarredarle per fare in modo che ci sia una migliore convivenza. Ecco, passiamo a toccare l'argomento. Una regola che io proprio non condivido, un'altra, è la corsia condivisa. Cioè ci possiamo andare sia con l'autovettura sia con la bicicletta, questo non è sicuro, no? Io penso una cosa, mi scusi ingegnere, faccio una riflessione senza prender parte. Le corsie preferenziali servono per far scorrere più velocemente autobus e taxi, se no è inutile, non avrebbero lo stesso rallentamento, per incentivare le persone a non prendere... a prendere l'automobile, dice prendi l'autobus o il taxi che va sulla preferenziale e fa prima. Se un'allegra... lecitamente circolante comitiva di ciclisti va in una preferenziale, sia il taxi che l'autobus comunque rallentano, quindi ritorniamo alle condizioni di base, che non c'è più senso di avere le preferenziali. O non fila questo discorso? No, è corretto. Guardi, mi segnalava un collega di Milano l'altra settimana che e doveva tornare a casa, aveva fatto tardi al lavoro, diceva beh, ci metto poco, prendo un taxi, si è trovato su una corsia preferenziale e andavano piano, dice, ma che è successo, c'è qualche incidente? No, c'era semplicemente un monopattino davanti al bus e ai taxi che percorrevano la corsia riservata, che andava alla sua velocità e impediva agli altri mezzi di andare alla loro velocità. Ma da quando passerà la Camera anche questa norma diventerà legge, nessuno potrà dirgli niente. Se io vado col monopattino e vado piano, e quindi sono corretto che il monopattino va anche veloce, in una corsia preferenziale non possono dirmi nulla, è mio diritto andarci. Sì, però questo sicuramente comporterà dei disservizi per altri mezzi di trasporto. Allora è per questo che bisogna vederle bene le cose, bisogna organizzarle in modo tale da rispettarci sia come esigenze sia come caratteristiche, pure in modo da preservare la sicurezza innanzitutto, ma anche diciamo la funzione del traffico. Ecco, da quel punto di vista ribadisco, le strade andrebbero divise su due livelli, una riservata agli utenti vulnerabili, quelle locali dove vige 30 km orari, ed una invece destinata primaria. Questo sarebbe diciamo una progettazione urbana all'optimum. In realtà le strade rimangono le stesse, le destinazioni rimangono le stesse, poi entrano queste norme un po' spot che magari saremmo stati tutti più contenti se fossero state un pochino più pensate. Fermiamoci ancora un istante. Melog 800240024, vediamo di toccare con i nostri ascoltatori qualche altro punto di questa riforma del codice della strada, di cui ancora si parla poco, ma vedrete che quando diventerà legge se ne comincerà a parlare. Vediamo Enrico, buongiorno. Buongiorno. Enrico, ascolta. Nicoletti, come sta? Tiriamo avanti, da poveri vecchi. Sì. Forza, andiamo avanti con la trasmissione. Siamo sentiti per la festa di Sant'Agata a Catania, si ricorda? Sì, ricordo una serata e una giornata, praticamente ero entrato in una dimensione spazio-temporale parallela in cui tutta gente andava per strada con dei ceri, si scivolava sulla cera e tutti dicevamo, non ricordo com'era la frase. Tutti devoti, sì, ancora. Conservo qualche trauma per quella giornata, però mi era stato molto divertente, sì, perché avevo cera bollente ovunque. Andiamo al punto di oggi, però. Allora, è inutile fare i 30 km orari come autovelox e cose varie, non ha senso. Chi è che vuole superare i 30 km non gli frega niente se gli arriva la multa. Se si deve Beh, oddio. Queste persone mettono le pattuglie, si blocca e si fa subito il verbale. In secondo luogo, qui in Sicilia gli scooter elettrici vanno più veloci dei 30 e sono senza targa, non è che hanno problemi. Anche i monopattini a Roma sfrecciano a velocità iperbolica, li vedo che vanno veloci. Ci sono, nemmeno li vedi perché ti escono all'improvviso. Ci sono delinquenti che li truccano, aumentano il voltaggio, perciò la velocità la possono superare anche di 30-40. Perciò alla fine vengono in Sicilia, Messina, Catania. Se già i semafori rossi non ti fermano gli scooter e le moto, perciò che senso ha cercare di liberalizzare e aumentare gli incidenti? Si mettono agli incroci i vigili urbani, vadano nei punti nevati e fanno Ho capito, sì, la soluzione lo so, le direbbero i sindaci, non abbiamo vigili a mettere a tutti gli incroci. Lei può girare la Sicilia senza assicurazione, pattuglie di auto in strada che ti fermano non esistono. Sì, però scusi, non può portare come esempio situazioni in cui non viene rispettata la legge. Certo, a certe latitudini d'Italia mettere la cintura di sicurezza viene considerato poco virile. Ho amici siciliani che mi prendono in giro perché mettono la cintura di sicurezza, come se andassi in giro, che ne so, vestito da cocotte. Alla stessa maniera si va in tre col motorino senza casco. Queste sono le eccezioni tollerate che sono fuori dalla legge. Teniamoci al codice. Enrico, buongiorno. Enrico ha parlato? Antonio? Pronto? Sì, Antonio. Sì, pronto? Ascolto. Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, ora finalmente ci siamo. Allora, sì, buongiorno innanzitutto. Volevo esprimere semplicemente un pensiero. L'altro giorno, in una trasmissione, c'era il presidente della FIAB, di Abutale Alessandro Tursi, che parlava e aveva una serie di pretese in merito a quelle che sono i diritti dei ciclisti. Mai una parola sul dovere e mai un elemento sostanziale. Chi paga le strade, chi paga l'urbanizzazione, chi paga le bici buttate sul marciapiede per terra, il disordine che creano, lo sfrecciare sui pedoni? Per quale motivo non si può creare una targa per il ciclista, per anche naturalmente il monopattino, in modo così da poter essere anche loro educati in quelle che sono le forme di rispetto comune, comune naturalmente. Chiedo scusa, mi sta andando via la voce. Sì, sì, si mantenga, probabilmente è reflusso gastrico, quindi stia attento a quello che mangia e stia tranquillo, e magari si prenda l'inibitore di pompa. Ecco, ho fatto anche la mia diagnosi al volo. Allora, ingegnere Enrico Pagliari, come vede, ognuno poi segue secondo il proprio flusso emotivo quello che è. Però vorrei tenermi sulle biciclette, abbiamo detto già abbastanza. Sì, è chiaro, la targa sarebbe auspicabile, ma non si è mai fatto. Sì, anche il casco un po' per tutti, per esempio un'altra anomalia delle ultime regole, no, non in questo, è il casco sul monopattino fino a 14 anni, poi da 14 a 18 poi fai come ti pare, insomma. Ma scusi ingegnere, io li vedo tranquillamente, andare in due ormai è norma, a Roma girano con i monopattini in due. Che fa paura però, solo ecco, a vederli per la loro incolumità, ma nessuno li ferma. Rimane il discorso, ecco, di rispettarci e di convivere, cioè per convivere civilmente e in sicurezza dobbiamo darci delle regole e convivere. Questo è. Sento una cosa, invece, concetto a queste. No, la cosa mi interessa, visto che è stato argomento, questo delle multe nei turbini, gli addetti al traffico, cosa c'è di vero e come va ridimensionata questa parte della riforma? Leggendola sui giornali sembrerebbe che il netturbino va per strada col blocchetto e ti fa la multa la seduta stante. No, in realtà non è così. Si tratta, questo non è possibile, né ce lo auspichiamo ovviamente, cioè mentre può essere positivo il discorso che viene allargato, vengono allargati i soggetti che possono fungere da ausiliari del traffico, quindi di supporto alla polizia locale, segnalano semplicemente gli illeciti, però poi è sempre il corpo di polizia locale, di polizia municipale che emette la sanzione, quindi questo deve essere sacrosanto, è poi il ruolo dell'ausiliare, quindi va bene completargli le mansioni, per esempio c'è l'ausiliare della sosta che paradossalmente poteva evidenziare solo sanzioni dentro le strisce, ma se c'era un veicolo in doppia fila o in divieto di sosta dall'altra non parte poteva. Della strada non era autorizzato, cioè queste sono anomalie che vanno corrette, però ripeto, la funzione dell'ausiliare è quella di supporto alla polizia locale, quindi segnala gli illeciti, facilita il lavoro del poliziotto, però poi è l'operatore di polizia locale che firma e emette la sanzione. Come per i netturbini, mi sembra di aver capito, posso far multe se uno mette la macchina davanti al cassonetto, e non per altre, posso fare, cioè segnalare l'infrazione se qualcuno mette una macchina davanti al cassonetto, ma non per altre cose. Sì, esatto. Quindi diciamo, da questo punto di vista, se è così, può essere anche positiva. E poi non lo so che ne pensano i netturbini, se hanno pure quest'altra mansione. No? Sì, se hanno anche voglia di poi di mettersi a segnalare mansioni, anche le auto. Ecco, sì, è chiaro. Sentiamo Elena. Elena, buongiorno. Buongiorno Elena. A voi, io vi saluto. L'ascolto. Da Venezia, come va? Bene, lei non ha problemi di monopattini e biciclette, quindi. Beh, diciamo che fin tanto che sono nel centro storico, anche no. Però nel momento in cui appunto vado in terraferma il problema si presenta. Io sono una, diciamo, una biciclettara, come diciamo noi, una ciclista, ma anche una, ho anche l'auto, no? E appunto la mia obiezione, la mia domanda è: ma questa regolamentazione di questi mezzi, che io ho provato, perché no, ci sono a noleggio le biciclette, quanto queste monopattini o chi le ha per uso privato, ben venga, perché giustamente anche no, ecologico, ma una regolamentazione a livello del codice della strada, magari un casco, magari una segnaletica, sì, perché allora permetti di andare contromano su una strada e il conducente di un autoveicolo si trova a fare un frontale con un mezzo che è autorizzato ad andare contromano e che magari si trovi sulla coscienza una persona. Sì, ma esattamente quello che ci sta dicendo appunto l'ingegnere Pagliari Delaci. Adesso non arriviamo a anticipazioni così truci, il frontale contro mano che sarebbe disastroso. Poi in effetti qualche problema c'è. Come ACI, come vi state muovendo, ingegner Pagliari? Farete in qualche maniera una segnalazione? Richiederete di essere in qualche maniera sentiti? Il Presidente è molto preoccupato diciamo prenderà posizioni su queste cose qui. Ecco, un altro concetto che volevo dire, secondo me nel codice della strada ci stiamo mettendo troppo. Nel senso, il codice della strada dovrebbe essere solo dei comportamenti, come ci comportiamo quando siamo su strada tra soggetti diversi per rispettarci. Invece, per esempio, ecco un'altra norma in questa novità: la durata del giallo semaforico deve essere di almeno 3 secondi. Il tempo di giallo del semaforo non deve stare nel codice della strada, perché esce fuori da un calcolo la lunghezza della manovra, la velocità. Però lo sai, ingegnere, c'è stata tante polemiche di tanti comuni che mettevano, che mettevano il giallo immediato per fare cassa, ci sono stati semafori che nemmeno passava al giallo, che si passa direttamente al rosso un istante, quindi forse l'hanno fatto per regolare diciamo l'abuso che potrebbero fare i comuni. La leggo male, perché spesso i 3 secondi non sono sufficienti, occorre un giallo per sgomberare un'intersezione superiore. Allora, certo. Non mettono tutti, regolano il semaforo a 3 secondi e tu a 3 secondi stai al centro della carreggiata e ti faccio la multa. Ecco, la leggo anche così, no? Nell'altro verso. Quindi il giallo, come altre, dovremmo semplificarlo questo codice della strada, invece lo andiamo sempre ad appesantire. Mi sembra genere che il concetto sia stato espresso chiaramente anche dagli interventi a caldo degli ascoltatori. Speriamo che questo possa servire comunque a riflettere un po' meglio su norme che magari partivano mosse da ottime intenzioni, ma all'atto pratico alcune di queste possono rivelarsi anche abbastanza pericolose o difficili essere messe in atto. Alla prossima.